I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. It's not an easy skill to learn. I've been practicing it for many years. Non mi hai conosciuto mai, adesso che farai? Mai mi hai conosciuto e manco mi conoscerai. Nessuno si immagina quanto mi fa male. Sono intrappolato in una gabbia mentale. È così, il veleno che mi sale. È per me tutto quanto naturale. La saga delle follie proviene da una testa piena di malattie mentali, sono paranoie devastanti, danno vita a momenti ancora più frustranti e si ripassa un'altra volta con l'amici a darsi una stravolta. Stavolta non mi faccio più problemi, stavolta resterete tutti come degli scemi, osceni contatti con la droga, stavolta me farò ma con ancor più foga. E non dite che mi conoscete, dubito che mi riconoscerete. Sono strafatto, cosa vi credete? Non c'ho più fame, ma me viene sete di potere. E che ce posso fa? Vorrei vedere il mio nome per tutta la città. Voglio avere momenti di gloria e pischelle che i miei testi si imparano a memoria. E da questo mi sa che sto distante. Dovrò fare altre canzoni, ma chissà quante. E le scriverò finché c'ho l'occasione. C'ho questa passione e c'ho l'ispirazione a profusione. Continuerò a rimare. Attitudine che c'ho ad improvvisare. Ok dai, bella presa a bene. Fotti con me sa che in te conviene. Penso solo al sesso, sono un animale. Ho avuto più di un rapporto occasionale, quelli lunghi e quelli de fretta. Cosa vuoi che faccia? Pensi che io smetta? Devo fare, devo scopare. E come sempre c'ho la voglia di svuotare le palle e per svuotarle parla d'amore e raccontagli le calle. E le pischellette sono tutte uguali, pensano al cazzo e non ai regali. E c'è la quindicenne zoccoletta che si è presa un par di schiaffi, poveretta. Questi so racconti da ragazzi e ci so casi strani come quello Sara Scazzi. Robe vere mica de fantasia, è stato un degenero della follia. E cosa puoi dire e cosa puoi fare? Certe cose so strane pure da raccontare. Una storia che ancora non è finita, che te ricorderai per tutta la vita. E me lo ripeto mentre faccio un'altra mista. Per ogni cosa ci sono più punti di vista. A volte è solo una percezione, a volte invece è solamente un'illusione. Anche questo disco è in conclusione. Sono pronta a fa' la nuova promozione. E ci risarà l'autodistribuzione. Il vero underground è la mia fissazione. Si può dire di tutto in maniera dura. Qui non esiste la censura. So partito bene con Total 90. Ecco perché Orbe è ancora qui che canta e rappresenta per l'HKS. Tocca corde mentali in aree dismesse nel cervello che frigge dall'angoscia, che va a sentire almeno qualcosa che scroscia, come proprio un battito di mani. Un applauso a tutti quanti i rapper italiani.